Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto al telefono con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, oggi parliamo di una cosa che è un po' particolare perché riguarda magari solo una determinata categoria di persone, cioè quelli che hanno un negozio e che si trovano ad avere magari il POS, no? Che ci permette attraverso la tessera Bancomat di effettuare dei pagamenti all'interno dei negozi stessi, perché questa cosa non è proprio così normale, cioè non è detto che un negozio debba avere il POS. E poi anche attraverso questa macchinetta, che è molto utile se dobbiamo fare dei pagamenti, possono nascere dei problemi. Sì, allora nel caso specifico raccontiamo un attimo la storia di un titolare di una stazione di servizio qua del Veneziano, della zona del Veneziano. Questo titolare di servizio appunto utilizza un POS per il bancomat, si sa che è molto utilizzato il bancomat chiaramente quando si fa a fare benzina. E cosa succede però? Succede che questa persona aveva sottoscritto con British Telecom un contratto, lo aveva sottoscritto ancora a maggio del 2015, e un contratto che prevedeva linea telefonica fissa, mobile, ADSL, quindi insomma tramite la ADSL funzionava anche il POS e quindi era una necessità assoluta per questa stazione di servizio. E cos'è successo? È successo che però da maggio la linea diciamo è stata attivata, la linea del POS è stata attivata solo ad agosto, quindi insomma sono stati diversi mesi nei quali il titolare della stazione di servizio non ha potuto usufruire del POS, quindi insomma ha perso parecchi clienti, questo è un dato di fatto. Ora Francesco, chiaramente la persona si è rivolta a noi, abbiamo fatto una prima contestazione a British Telecom chiedendo lo storno ovviamente delle bollette, perché chiaramente è stato un grande disservizio, e anche un risarcimento di qualche migliaio di euro per il guadagno mancato, quindi per il danno subito dall'assenza del POS, ecco, dal non funzionamento del POS. Quindi mi sembra di capire che la compagnia telefonica gli avesse comunque fatturato il servizio che non c'era. Gli ha fatturato il servizio e addirittura erano circa un 3.000 euro, siamo arrivati poi tra le altre cose alla fine ad agosto, insomma quando è iniziata la contestazione, quindi aveva accumulato anche delle bollette pur non funzionando, anzi in realtà il POS non ha funzionato fino ad agosto, la linea fissa invece in realtà aveva cominciato a funzionare a luglio, ma insomma sto parlando sempre di mesi di disservizio. Questa persona, insomma questo imprenditore, si è rivolta all'Adico, abbiamo fatto una prima contestazione alla quale British Telecom non ha risposto, e allora siamo andati appunto in accordo con il titolare della stazione di fronte al Corecom, che è il Comitato Regionale per le Comunicazioni, ed è qua che insomma volevamo un po' arrivare, al di là della storia, noi ne abbiamo tante storie, tu sai benissimo Francesco, sì. Però vogliamo arrivare anche a dire questo, perché chiaramente vogliamo dare anche delle informazioni utili ai radioascoltatori. Allora, ci siamo presentati davanti alla Corecom, la quale veramente in pochissimo tempo, come di consueto, ci ha stabilito appunto che venissero stornati i 3.000 euro di bollette e che ci fosse un risarcimento congruo di 1.800 euro per il titolare della stazione di servizio. Ora, interveniamo spesso tramite Corecom, andiamo spesso tramite Corecom, tramite il nostro ufficio legale, lo consigliamo e vogliamo dire una cosa, perché noi insomma siamo soliti anche criticare ovviamente ciò che non funziona, invece il Corecom funziona e funziona bene, a tempi rapidi, è diciamo un organo giusto che dà quindi le giuste tutele a chi si rivolge, e quindi diciamo ecco che nel campo, e chiaramente la Corecom interviene nel campo delle comunicazioni, quindi la telefonia, le TV a pagamento eccetera, per cui diciamo lanciamo appunto l'appello, l'invito in realtà tramite il tuo programma a stare tranquilli quando si hanno problemi di questo tipo, perché ovviamente ci si può rivolgere all'associazione, ci si può affidare a un legale, ci può fare una prima contestazione, però se non si riesce con la prima contestazione ad ottenere i risultati che si cercavano, la Corecom, alla quale si ricorre sempre tramite, si può ricorrere sempre tramite anche il nostro ufficio legale, la Corecom chiaramente è un organo che veramente è molto attento all'utente, è molto rapido, ed è molto giusto, ecco, è un arbitro in realtà, quindi va a mediare tra le due posizioni, però ecco, diciamo che è una mediazione che risulta sempre molto efficace, quindi diciamo anche le cose che funzionano, perché sennò Francesco rischiamo di dire sempre che tutto non va. E in questo caso questo è l'ennesimo racconto, l'ennesima vicenda abbastanza anche emblematica, nella quale abbiamo potuto notare insomma che con Corecom si può sicuramente dialogare e Corecom sicuramente aiuta a dipanare molte matasse. Ah, va bene, è una notizia interessante. Io ricordo che c'è il sito dell'Adico, che è www.associazionedifesaconsumatori.it, dove si possono trovare i contatti, i numeri di telefono e anche tante interessanti notizie che certe volte aprono proprio gli occhi a noi consumatori. Grazie quindi all'Adico, grazie a te Gianluca Codognato, ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.